Ma io lo rispondo con il titolo della vostra trasmissione, si può fare. L'ultimo mio film sul mare è un film fatto a impatto zero. L'idea è quella di utilizzare gli spazi aperti vuoti in abbandono per riattivarli con dei progetti. La risposta è stata positiva, il grosso usa la bicicletta per venire in ufficio. Costruire un mondo migliore? Forse non ci crederete, ma è possibile. Noi vi raccontiamo le storie di quelli che ci provano con le loro mani. Sono Alessio Maurizi e vi aspetto ogni sabato e domenica a mezzogiorno su Radio 24. Anche sul canale 700 di Sky.